Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Moody's ha deciso di tagliare di 2 scalini il rating sui titoli di Stato italiani, con un tempismo che la Commissione europea ha giudicato inappropriato e discutibile, vista la coincidenza con un'asta di titoli di Stato. Secondo i dati della CEA, a giugno il mercato dell'auto in Europa ha subito un calo per il 9° mese consecutivo. Sono questi i principali argomenti della settimana al centro di questa nuova puntata di Economia in Europa. Moody's ha deciso di tagliare di 2 scalini il rating sui titoli di Stato italiani, portandoli a Baa2 da A3, mantenendo un outlook negativo. La notizia è arrivata venerdì 13 luglio. È probabile che l'Italia sperimenterà un ulteriore netto incremento dei costi di finanziamento del debito, ha affermato l'agenzia di rating, per il quale le cause sono un aumento della fragilità della fiducia nel mercato, il rischio contagio da Grecia e Spagna e i segni di un'erosione degli investimenti stranieri. Anche il clima politico, specialmente con l'avvicinarsi del voto della prossima primavera, è fonte di un aumento dei rischi, ha aggiunto Moody's, spiegando che il taglio del rating dei bond italiani è dovuto anche a un deterioramento della situazione dell'economia, nonostante le misure e le riforme positive decise dal governo. La Commissione europea ha giudicato la tempistica del declassamento dell'Italia da parte di Moody's inappropriata e discutibile per la coincidenza con l'importante asta di titoli di Stato in programma proprio per venerdì 13, spiegando che considera le riforme adottate dal governo impressionanti se non senza precedenti. Lo ha detto Simon O'Connor, portavoce del commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn, che ha aggiunto che il Paese deve continuare a rimanere concentrato con la stessa determinazione sulle riforme nei prossimi mesi. Sentiamo. I have no comment to make on the content of this announcement by this particular credit rating agency. Non commento i contenuti del declassamento di rating operato da Moody's. Tuttavia, penso che ci si possa legittimamente porre delle domande sull'appropriatezza della tempistica del declassamento. E senza dubbio non è la prima volta che si pone tale questione. Pensiamo che l'Italia abbia messo in campo un'ampia gamma di misure di risanamento per riportare i conti su un percorso sostenibile, assieme a riforme strutturali significative. Sul fronte del consolidamento dei conti pubblici, l'Italia è impegnata in un'azione di larga portata, di lungo periodo. Uno sforzo che da maggio 2010 è stato pari al 7% del PIL e che permetterà di avere, dal 2013, un considerevole avanzo primario e di porre il debito su un percorso di discesa. Inoltre, dopo aver introdotto in Costituzione la regola sul pareggio di bilancio, l'Italia è uno dei paesi pionieri in questo senso. La Commissione europea saluta lo sforzo di risanamento di bilancio mediante tagli alla spesa pubblica con la Spending Review, una revisione di lungo termine che non finisce con le misure già annunciate. Incoraggiamo il governo a rendere più efficiente la pubblica amministrazione, a migliorare la concorrenza sui mercati dei servizi e dei prodotti e ad accrescere la capacità di assorbimento dei fondi strutturali comunitari. Benvenuta è poi la riforma del mercato del lavoro, che dovrebbe aumentare il dinamismo del mercato e ridurne la segmentazione. Nonostante il tempismo di Moody's, l'asta dei BTP a 3 anni si è chiusa con un risultato incoraggiante. Il Tesoro italiano ha venduto titoli con scadenza luglio 2015 per complessivi 3 miliardi e mezzo di euro, massimo ammontare prefissato. E i tassi sono scesi al 4,65% dal 5,30% dell'analoga asta di giugno. Ha ripreso però a salire lo spread fra il BTP decennale italiano e il Bund tedesco. Il differenziale di rendimento fra i due titoli ha toccato quota 495 punti base nella giornata di lunedì 16 luglio, segnando i massimi dal gennaio scorso. Il tasso sul titolo del Tesoro è in rialzo al 6,16%, dati che sono stati oggetto proprio nella giornata di lunedì delle dichiarazioni di Carlo Cottarelli, responsabile del Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internazionale, che ha sottolineato come alcuni spread in Europa non siano giustificati dai fondamentali. Sebastiano Barisoni ha commentato queste